Questo è un audiolibro realizzato per il progetto LibriVox. Libera i libri con la tua voce. Questo audiolibro è rilasciato sotto la licenza Creative Commons, attribuzione non commerciale, condividi allo stesso modo. Audiolibro registrato da Marzia, marzia@cumaves.it. Che cosa è la mafia? Di Gaetano Mosca. Capitolo sesto. Gli scopi che si propongono le cosche mafiose sono diversi, ma nella loro immensa varietà si possono ridurre ad uno solo: ottenere il massimo prestigio ed il massimo guadagno illecito a pro della società o dei suoi membri più influenti, impiegando il minimo sforzo delittuoso ed affrontando quindi il meno possibile le indagini di rigore della giustizia. Esse hanno inventato all'uopo una vera tecnica del delitto, per la quale non rifuggono dal reato più atroce, dall'assassinio per agguato, quando ciò è necessario per salvare l'associazione, per conservare il patrocinio di qualche protettore influentissimo e spregiudicato, o per compiere una vendetta che stimano indispensabile. Ma nei casi ordinari non solo si industriano di violare il meno possibile il codice penale, ma cercano anche di conservare quelle forme, quelle apparenze che valgono a non offendere troppo l'amor proprio e anche lo spirito di mafia delle vittime e dei loro scrocchi. Si agisce quindi in maniera che la vittima stessa, che in realtà paga un tributo alla cosca, possa lusingarsi che essa sia piuttosto un dono grazioso o l'equivalente di un servizio reso anziché un'estorsione carpita con la violenza. Ecco per esempio una delle tante commediole tipiche che vengono recitate dalle cosche mafiose. In uno dei comuni rurali che fanno corona a Palermo, o anche in una borgata rurale aggregata alla città, un signore acquista o eredita un fondo coltivato da agrumi, a vigne o a frutteto. Già, durante le trattative o nelle prime visite al fondo, ha notato due o tre figure del luogo che con ossequità, curiosità, non spoglia di una certa sostenutezza, di un certo non so che si capisce al volo. Gli hanno fatto profonde scappellate ed hanno cercato l'occasione di scambiare qualche parola con lui. Qualche giorno che va sul luogo a visitare la sua proprietà ed a curare i suoi interessi, uno di quei figuri, generalmente il più avanzato di età o il più autorevole, va a farle visita. Gli augura il benvenuto, gli si offre per ogni specie di servizi. Discorrendo non manca di far rilevare i vantaggi e i comodi del sito. L'aria è buona, le passeggiate amenissime, gli abitanti cortesi ed ospitali. È vero che qualcheduno ne dice male, ma sono calunnie. Ci è sì qualche ragazzaccio un po' bizzarro, ma capisce la ragione ed ascolta sempre i consigli delle persone autorevoli che lo sanno fare mettere a posto. Un signore come quello col quale si parla, che conosce il vivere del mondo e sa rispettare tutti, è sempre a sua volta rispettato. Può vivere sicurissimo, andare e venire di giorno e di notte, la sua proprietà sarà custodita, la sua signora e i suoi bambini potranno girare liberamente dappertutto, senza timore che qualcuno tocchi loro un capello o diriga loro una frase, un gesto, che non siano riguardosi. Se il signore visitato non fa troppo sostenuto e ricambia le cortesie e le esibizioni, egli, che del resto è trattato bene da tutti, nota subito una particolare deferenza da parte dei 7 od 8 che passano per pregiudicati del paese. Ma viene il giorno in cui deve vendere i suoi agrumi o affittare il suo fondo, oppure ha bisogno di un guardiano che ne custodisca i prodotti. Ed allora si presenta il personaggio solito a proporre l'affare o l'uomo che fa per lui. Ben inteso che si tratta sempre di un buon affare o di una persona affidatissima e attissima al posto che dovrebbe occupare. Ma se la vendita o l'affitto dei terreni si conchiudono per il canale dell'ufficioso intermediario, si può essere sicuri che il prezzo della merce venduta o l'entità del canone stabilito sono sempre del 4 o del 5% inferiori a ciò che dovrebbero essere secondo le vere condizioni del mercato. E se si conchiude invece il contratto di locazione d'opera, si può essere ugualmente sicuri che il nuovo guardiano custodirà benissimo i prodotti del fondo dai piccoli ladri campestri, ma permetterà che il compare che gli ha procurato il posto dei suoi amici della cosca prelevino sui prodotti stessi una piccola decima. Se il nuovo proprietario ha fatto fin dal primo momento sostenuto, o se dopo le prime accoglienze oneste e liete non crede opportuno di agire i suoi affari secondo i suggerimenti dell'uomo ufficioso che è venuto ad offrire i suoi servizi, allora questi, i suoi soci, non li tolgono addirittura il saluto. Ma la loro amicizia si raffredda molto. Contemporaneamente a questo raffreddamento cominciano a verificarsi molti piccoli inconvenienti. Un bel mattino, ad esempio, qualche decina di alberi o di viti si possono trovare tagliati. La notte il fondo è visitato da piccoli vandali, da ladroncelli che danneggiano le colture, fanno bottino di frutta e sporcano intere sacche di limoni. Se l'amicizia si rompe del tutto e si cambia in aperta amicizia, allora possono arrivare casi gravi. Un intero vigneto può essere tagliato, un'insolente lettera di scrocco, anonima, ben inteso, viene recapitata per posta o fatta trovare davanti l'uscio di casa, una palla di fucile può fischiare a qualche metro dalla testa del guardiano veramente fedele, che vuole sul serio impedire furti e le devastazioni notturne. Ai casi estremi, come sarebbero l'assassinio del guardiano fedele o il ricatto con sequestro di persona del proprietario del fondo o di qualche suo membro di famiglia, ora non si arriva che molto raramente, già che questi sono reati rumorosi che fanno parlare i giornali ed attirano l'attenzione della giustizia, la quale allora usa di arrestare i membri più influenti della cosca locale e, benché spesso debba finire con metterli fuori per insufficienza di indizi, li tiene intanto lunghi mesi in prigione ed inoltre qualcuno ne ammonisce, qualche altro ne manda a domicilio coatto. Naturalmente gli anziani delle cosche non amano simili procedimenti e molto preferiscono di godere in santa pace la cara libertà ed il pane onestamente e disonestamente guadagnato. E questo amore del quieto vivere è così forte nei capi delle cosche mafiose che essi volentieri praticano anche il perdono delle offese e sono quasi sempre pronti a riappiattumarsi con coloro che, dopo aver ostentato disprezzo o noncuranza per la loro intromissione ufficiosa, ricercano la loro amicizia. Così, ad esempio, se il proprietario che ha subito qualche furto nel giardino, che ha avuto tagliate qualche dozzina di vite o ricevuto una lettera di scrocco, manda a chiamare quel tale compare di cui ho parlato, gli fa cordiali accoglienze, gli domanda perché non sia si lasciato vedere più e poi gli informa confidenzialmente del danno dell'offesa ricevuta e gli chiede il suo autorevole parere sul modo come regolarsi. Allora tutto si accomoda subito. Ben inteso che l'uomo lì per lì non sa nulla, la cosa gli riesce nuova, anzi gli reca meraviglia, ma indagherà, vedrà e poi riferirà. Nel paese egli è rispettato ed ha le relazioni necessarie per appurare tutto. Difatti, dopo qualche giorno torna con ilare cera, dicendo di avere saputo di dove veniva la mano che ha offeso il suo signore. Sono stati i ragazzacci, alcuni discoli che ha già messo a posto, i quali sono pentitissimi del torto fatto al signore e gliene domandano umilmente scusa. Può garantire, inoltre, nel modo più assoluto che il torto fatto non si ripeterà. Se il signore poi crede, se vuol mostrare la sua generosità, alle volte si sa, è la necessità, la fame ciò che spinge a fallare. Ora che quei ragazzi sono pronti a gettarsi ai suoi piedi, può regalare loro qualche cosa, qualche centinaio di lire a titolo di mancia, perché siano un po' allegri, già che la gioventù vuole il suo sfogo ed essi così benediranno la sua bagnanità. Il centinaio di lire è sborsato, il signore ringrazia per giunta l'uomo dell'abilità e dell'amicizia dimostrata e lo prega di non rendere rare e preziose le sue visite e l'uomo se ne va più contento, più secchioso che mai e protestando che la sua amicizia per il signore non si è in alcun modo intiepidita. Nell'interno dell'isola le cosche mafiose sono un po' più rozze, ma in fondo procedono con modi analoghi. Data la natura dei luoghi e delle culture, colà il taglio delle vite e degli alberi è poco usato come mezzo di imporsi a recalcitranti, ma viceversa si hanno casi di incendio delle messi, qualche volta di boschi ed oliveti, e di frequente accade che qualche capo di grosso bestiame, che per il sistema prevalente del pascolo brado, passa la notte in campagna, si trovi la mattina sgozzato. Reato più utile eppure frequentemente perpetrato dalle cosche dell'interno è l'ebigeato furto di bestiame. In questo caso avviene, come ho accennato, che due cosche di paesi lontani, spesso di province diverse, entrino in stretti rapporti, perché l'una deve cercare di vendere a macellai affiliati e qualche volta ai fornitori militari il bestiame rubato dall'altra. Anche nell'interno dell'isola uno dei mezzi più spicci e più usati per riavere il bestiame rubato è quello di rivolgersi al capo della cosca del luogo dove il furto fu consumato. Questi al solito si finge nuovo della cosa, ma promette di informarsi, di parlargli agli amici e dopo 3-4 giorni, se gli animali non sono stati già macellati, si trovano abbandonati, vaganti nel territorio di qualche vicino comune e sono ricondotti al legittimo proprietario, che naturalmente non manca di versare nelle mani del compare che ha trattato l'affare un regalo equivalente al quarto o al quinto del valore del furto subito. ed il compare in tasca il regalo, protestando che esso servirà a indennizzare del tempo perduto gli amici che ha incomodato, ed anche per dare una mancia, per offrire un piatto di maccheroni e un bicchiere di vino ai picciotti che avevano commesso la leggerezza di impadronirsi dei buoi di un signore tanto rispettabile, ma che poi si sono dimostrati pentiti ed hanno riparato il malfatto. Nei pochi comuni dell'isola, nei quali dura ancora un avanzo di brigantaggio, i manutengoli si reclutano a preferenza fra le cosche locali e le imprese dei briganti sono spesso da esse dirette ai danni di coloro che sono reputati nemici. I sequestri di persona con liberazione mediante riscatto pagato dalla famiglia, reati difficili da organizzare perché richiedono molti complici, perciò relativamente rari, sono quasi sempre il frutto della collaborazione di una cosca con parecchi briganti, ai quali naturalmente incombe la parte di esecutori materiali del reato.